al di sopra delle parti di queste polemiche, soprattutto è stato molto intelligente nel gestire la cosa e non abbiamo avuto recriminazioni dirette. Anche di fronte alla crisi, gli svizzeri, dice Locatelli, non hanno fatto preferenze di nazionalità, ma hanno guardato alle professionalità. Una dimostrazione di serietà che si ritrova in tanti aspetti e che pesa a volte nel confronto con l'Italia, soprattutto per i frontalieri. La prova concreta è che in Svizzera, con forse anche meno fondi, riescono a fare le cose in ordine e tutto funziona come deve funzionare. Poi i difetti ci sono in tutte le nazioni, è ovvio. Mentre in Italia sappiamo qual è la spesa pubblica e sappiamo purtroppo in che condizioni ci lasciano. È un po' delude, perché in fin dei conti sappiamo che come Italia potremmo avere delle potenzialità anche superiori alla Svizzera, dimostrazione del fatto che grandi aziende svizzere, che grandi opere svizzere sono gestite da architetti italiani, sono gestite da manager italiani, e per cui non abbiamo niente da invidiare a loro a livello di mente. 13:45 minuti, è tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia oggi Carmelo Lauricella. Potete commentare i nostri servizi oppure scriverci le vostre storie, le vostre segnalazioni. Noi rispondiamo su controluce@radio24.it oppure su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo domani mattina. Buona giornata da Alessio Maurizio.